Bernasconi, Bracchi, Bracchitto, Braga, Cibraga, Bramillo, Frigerio, Fumagalla. Giù le mani dai parcoli del nord, dai piccoli alunni martoriati, giù le mani altrimenti bum bum bum, le suoneremo anche i piccoli terrori. Giù le mani dai parcoli del nord, dai piccoli alunni martoriati, professori, sudici e pacchini, martoriate i piccoli terrori.